Allora, ci può spiegare esattamente chi potrà chiedere il prepensionamento? Perché di prepensionamento si parla, quindi di andare in pensione prima proprio perché si ha nel proprio nucleo, nel proprio ambito familiare, una persona in difficoltà affetta da gravi handicap fisici o mentali e di conseguenza che necessita della totale assistenza. Molto spesso le strutture ci sono per assistere queste persone, ma non sono, non dico adeguate, in ogni caso la famiglia deve fare molto e non sempre è detto che la famiglia voglia per forza usufruire di strutture, appunto, e quindi ci si vuole prendere cura anche di queste persone, è necessario farlo. E quindi chi potrà chiedere il prepensionamento, Bettoni, secondo quanto stabilisce almeno fino a questa formulazione la normativa? Bene, prima di tutto è utile ricordare che da una recentissima pubblicazione dell'Istat il 93% dei disabili vivono in famiglia, per cui questa è una norma che riguarda le famiglie soprattutto che assistono i disabili. E la legge prevede che i soggetti che possono richiedere il prepensionamento possano essere o genitori o fratelli a determinate condizioni o figli di persone con disabilità, e qui c'è il primo concetto da dire, nel senso che queste persone devono essere invalide totali al 100%, non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e essere contestualmente in una situazione di handicap in stato di gravità. Per cui se il disabile ha questi tra virgolette tre requisiti, il parente, che è o il genitore o il fratello o sorella o il figlio, se convivente, può accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, per cui passa da 65 a 60 se uomo e da 60 a 55 se donna, purché abbia assistito per 18 anni la persona disabile, per cui poi deve dimostrare di aver assistito per 18 anni la persona disabile e avere nella vita contributiva, avere una vita contributiva di almeno 20 anni. In questo caso potrà richiedere la pensione anticipata, per cui se uomo da 65 a 60 anni, se donna invece che a 60 anni a 55 anni. No, peraltro è molto interessante anche il punto del dover dimostrare di aver assistito per un tot di anni queste persone disabili nell'ambito della propria famiglia. Speriamo che poi il meccanismo, diciamo, di conferimento e di riconoscimento di questa pensione non si ceppi proprio nelle modalità di riconoscimento, perché mi sembrerebbe anche assurdo.